Smart City, la città intelligente. Portare l'agricoltura dentro le mura della città, o perlomeno la coltivazione di alcuni prodotti agricoli. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Questa sera ci chiederemo se tutto ciò può essere una buona idea, quindi crescere ortaggi, ma persino allevare animali in veri e propri grattacieli verdi. Il moderno concetto di vertical farm, che in realtà è stato espresso per la prima volta agli inizi del Novecento, nasce però nel 99 alla Columbia University, dove è stato formulato atto dall'ecologo americano Dixon Despommier. Da allora è divenuto un progetto che ha ricevuto, un progetto teorico, diciamo sulla carta, ma che ha ricevuto contributi da parte di molti architetti, ricercatori, che hanno fatto confluire idee un po' da tutto il mondo. Al momento però una vertical farm vera e propria non esiste, perché, diciamolo, intanto sono oggetti piuttosto costosi. Tuttavia quello dell'agricoltura in città potrebbe essere uno degli orizzonti più interessanti per le smart city, e le prime sperimentazioni, anche se insomma su scala ridotta, ormai esistono e pare che funzionino piuttosto bene. Ne parliamo con l'architetto Gabriella Funaro, che è ricercatrice Enea, esperta di vertical farm dell'Enea. Buonasera Funaro. Buonasera dottor Melis, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora senta, noi dobbiamo subito sgombrare il campo da un dubbio di fondo che immagino subito colpisce il nostro ascoltatore, perché uno si chiede: ma che senso ha costruire dei grattacieli per coltivarci dei pomodori? Non sarebbe meglio lasciarli lì nei campi dove sono sempre stati? Ma la risposta viene da una riflessione che la popolazione mondiale continua ad aumentare, e nel 2050 saremo 9 miliardi di persone, che dovremo produrre sempre più cibo e sempre più di qualità per tutti quanti, e che le risorse agricole sono sempre più scarse, scarseggia il suolo, scarseggia l'acqua, i fertilizzanti, le riserve di fosforo che, da cui si traggono i fertilizzanti, iniziano a scarseggiare, l'energia, anche questa è sempre un problema. Ecco, senta, ma in che modo le vertical farm sono una risposta a questo tipo di problemi? Ma sono una risposta in quanto si coltiva fuori suolo con queste colture idroponiche, ovvero con piccole zollette da cui nascono le piantine, vengono irrigate con pochissima acqua e con un minimo quantitativo di fertilizzanti. Ecco dunque che c'è un grande risparmio di terra, acqua e fertilizzanti. E questo risparmio è notevole, perché questi sistemi sono dei sistemi chiusi, cosa che porta altri vantaggi, vero? Certo, sono sistemi chiusi dove appunto non c'è bisogno di pesticidi, proprio perché i prodotti non vengono a contatto con l'aria esterna, e quindi la qualità del cibo è ovviamente garantita. I fertilizzanti possono essere recuperati e poi si impiega soltanto il 5-10% di quelli che invece sarebbero richiesti per le colture tradizionali su terreno all'aperto. Mi pare di ricordare che per quanto riguarda l'acqua il risparmio è ancora superiore, vero? Per quanto riguarda l'acqua il risparmio è nettamente superiore, addirittura un litro d'acqua per coltivare al chiuso contro i 100 per coltivare all'aperto. E questo per quanto riguarda le risorse necessarie a coltivare gli ortaggi, ma come sappiamo poi noi non è che ce li andiamo a comprare dal contadino, no? Il fatto che le vertical farm sorgano laddove si consuma il cibo. Certo, abbiamo il cosiddetto chilometro zero, che consente di evitare il trasporto su gomma, fonte di altrettanto inquinamento e altrettanto dispendio di energie ovviamente. Abbiamo quindi la distribuzione in loco, abbiamo la possibilità di anche imballare il prodotto laddove viene il prodotto coltivato, e quindi ci sono degli ulteriori risparmi in questo senso. Quindi noi dobbiamo immaginare che per esempio sul costo di una mela, praticamente da quando si produce a quando arriva sul banco del supermercato, addirittura quintuplica, proprio causa tutte queste voci di cui abbiamo parlato, e il costo di una carota addirittura aumenta di 7 volte. Ecco dunque che il chilometro zero abbatte anche questo tipo di costi. Ecco, ma che cosa ci si potrebbe coltivare dentro queste vertical farm? Naturalmente nelle vertical farm non possiamo immaginare di produrre frumento e grano, dobbiamo immaginare che si produce piante da foglia, tipo l'insalata, gli spinaci, i broccoletti, le piante da frutto, la melanzana, le fragole, piante da tubero, quindi le carote, le patate, tutto ciò che può essere coltivato anche su più strati, perché il vantaggio è quello di cercare di produrre, di aumentare la produzione, e quindi non tutto è possibile all'interno di questi sistemi chiusi. E complessivamente quindi quanto aumenta la produttività della zolla di terra, diciamo? Con le vertical farm. Naturalmente possiamo immaginare che innanzitutto possiamo fare molti più cicli rispetto alle coltivazioni a cielo aperto, e quindi questo già di per sé è un aumento della produzione. E inoltre, se per esempio coltiviamo l'insalata, possiamo addirittura decuplicare la produzione rispetto a un terreno all'aperto, proprio perché possiamo mettere addirittura fino a 6 strati uno sopra l'altro di piantine da cui poi raccogliamo i cespi di lattuga. Di lattuga. Senta, ma lei diceva produzione a ciclo continuo, ma anche di notte con l'illuminazione artificiale, come funziona? Beh, certamente questi sistemi chiusi hanno necessità dell'illuminazione artificiale, questo perché l'illuminazione deve essere uniforme su tutto il bancale dove vengono seminate appunto queste piantine. D'altronde già adesso si usano questi sistemi di illuminazione artificiale e si va sempre di più verso i LED, che sono quelli più efficienti, che consumano di meno. Ecco, e tra l'altro, a proposito di questi sistemi idroponici, si fa già largo uso anche qui, non è che si inventa una cosa completamente da zero. No, naturalmente ormai da tempo si sta coltivando con questi sistemi, gli olandesi sono maestri proprio di questo tipo di colture in serre chiuse con illuminazione artificiale, e sicuramente l'agricoltura del terzo millennio sarà tutto orientata con queste metodologie. Dunque Funaro, ci fermiamo qui, ma ci risentiamo domani per parlare di alcuni progetti più specifici. Per intanto grazie, buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.